col cane morto non ne ha bisogno di aprire la domenica e Pasqua, vediamo. Altrimenti potrebbe essere aperto più Columbano, ma va a San Napoli, potevo comprare maglie e sigarette. Oh, non me ne fotti nulla, Non sto più fumando la mattina, quindi la sera non me le posso anche comprare, mi interessa. Cava cava, io non sto fumando più niente. Fai bene, no, io sto benissimo. La mattina niente, dopo verso le 5 inizio a fumarmi qualche sigaretta. E praticamente va molto molto meglio. Oh, Antonio, ci sei? Sì, dimmi qua. Telefonata 145 525, quella è normale. Va bene? 145.525, poi te ne ricordi qualche altra? Me ne ricordo, io ce li ho tutti a memoria. Allora, se non c'hai antenna esterna, 145.750 non lo ricevi. Ok, perché quello arriva da Oristano e ci vuole l'antenna esterna e posizione, perché arriva 9.10 a me a casa, figurati, con l'antenna da 7.50 Comunque te la puoi segnare, 145.750, quello è l'R6. Sì, segnato, R6, 145.750, R6. Poi ho segnato 145.125, da 145.525. Cos'hai segnato? 145.625. Quello è l'R1, sì. Poi l'R0 è 145.600. Sì, segnato. Poi 145.775. Sì. Dagliele tu allora, dai. Dagliele tu, Vannino. Sei un cagamento di cazzo tu, buongiorno, dagliene tu allora. Mi chiedi a Vannino, oh, a te dai, che io sto scendendo a prendermi il caffè, sono presa niente. Comunque lascia quelli lì, poi vai in UHF, metti la frequenza del volte Salvucci, capito? 432, 525, ascolti tutta la Sardegna. Bianco Fermè, ci sentiamo. Ma attenzione Claudio, non mi senti? Ehi, dai, un attimino che stiamo scendendo dalla macchina. Sì, non siamo arrivati, dai.